Signora Assessore, signore e signori, l'idea di affidare la presentazione del volume uscito nella collana dell'Istituto di Scienze Religiose a uno storico italiano e a uno storico di lingua tedesca mi pare molto felice, perché Johannes Hindapach apparteneva ad ambedue le sfere culturali. Nato in Assia, già da ragazzo si trasferì a Vienna, dove intraprese lo studio del diritto canonico per poi proseguire i suoi studi, ormai 23enne, a Padova, restando per 7 anni in quella famosa università. Viaggiò più volte in Italia e uno dei suoi colleghi della cancelleria imperiale, sotto Federico III, fu Enea Silvio Piccolomini, destinato a più alte cariche, con il quale però, tra parentesi, non intratteneva rapporti particolarmente cordiali. In qualità di vescovo di Trento, doveva comporre in una sintesi il mondo tedesco e quello italiano, non solo perché nella sua diocesi l'elemento di lingua tedesca raggiungeva quasi la metà della popolazione, ma anche perché era terreno d'incontro del nuovo umanesimo con una tradizione culturale radicalmente diversa. Come in ogni ambiente nel quale due sfere culturali si incontrano con cordialità, così, anche nella Trento di allora, si sviluppò un intreccio interessante e pieno di fascino di due realtà diverse. Un esempio tale da giustificare, senz'altro, un'indagine retrospettiva scientificamente consolidata in un tempo nel quale l'incomprensione per la cultura o nazione diversa diviene spesso motivo di odio mortale. Per questo ho accettato volentieri l'invito di Monsignor Roggia a presentare questo volume insieme al professor Prosperi di Pisa e sono molto onorato di essere stato scelto per questo compito. Vorrei innanzitutto congratularmi con i due curatori, Monsignor Roggia e Marco Bellabarba, e con il Comitato Scientifico Internazionale per l'imponente volume e per le prodigiose capacità organizzative che hanno dimostrato nell'indurre 22 relatori alla consegna dei rispettivi contributi, nell'avere trovato un felice via di mezzo tra cordialità e fermezza, sollecitando al rispetto dei termini nella scelta di traditori competenti e infine nel dotare di un registro questo libro che conta quasi 500 pagine. È nata così un'opera eccezionale che resterà a lungo punto di riferimento per la storia del Trentino nel tardo 400, colmando inoltre una lacuna di lunga data nella storiografia. Infatti, all'ampio saggio di Victor von Hoffmann-Wellenhoff, pubblicato ormai 100 anni fa a Innsbruck nella rivista del Ferdinandeum, seguì un silenzio lungo vari decenni. Solo dalla metà degli anni 60 si risvegliò un interesse sporadico, incoraggiato dall'attualità del caso di Simonino di Trento, che negli ultimi anni ha generato una serie di studi, i quali ora finalmente ricevono un degno completamento. Avrà esercitato una certa influenza anche il ritorno di moda degli studi storici biografici e il fatto che la storia sociale ed economica, troppo spesso basata solo su noiose analisi, non riesce a cogliere lo svolgimento storico nella sua totalità. Ovviamente il risultato del convegno del 1989 non è una biografia di vecchio stampo, un tentativo di abbracciare e sfruttare tutte le testimonianze sulla vita di Hindebach, ma un'indagine nella quale il nostro è punto d'incrocio delle varie correnti politiche, intellettuali, religiose ed artistiche. Così, i contributi contenuti nei capitoli L'uomo e l'ambiente, Il governo del Principato, Vicende della Chiesa di Trento nell'età di Johannes Hindebach e Intorno al caso Simone di Trento coprono gli aspetti essenziali di questo episcopato, invitando però allo stesso momento all'ulteriore sviluppo degli studi. La presentazione dei contributi sarà svolta dal professor Prosperi per quanto riguarda il primo e il terzo capitolo, da me per quanto riguarda l'introduzione e i capitoli secondo e quarto. Nessuno, come Alfred Astrnath, era chiamato a tenere la relazione introduttiva del convegno dell'ottobre 89. Già 20 anni fa, in un lungo saggio, aveva ripercorso la vita del nostro prima della nomina a vescovo. Ma l'introduzione al volume non è un estratto di quanto già scritto allora, ma il frutto di nuove ricerche e di una prospettiva diversa. Vi appaiono con nitida chiarezza sia le relazioni familiari e la gioventù a Vienna, che la radicata appartenenza alla tarda scolastica dell'Università di Vienna, rendendoci l'immagine di un erudito di vecchio stampo, certo non quella di un umanista. Merita però di essere ricordato il fatto che, nonostante la continua caccia a prebende e molte altre occupazioni nella cancelleria e nella diplomazia imperiale, Hindebach era un uomo religioso. Si fece ordinare prete molto prima della nomina a vescovo, il che lo distingue dalla gran parte dei suoi pari. Era più giurista che uomo da lettere, anche se eruditissimo, restava pur sempre un uomo in carriera, giunto all'alta carica di vescovo come strumento della politica asburgica. Proprio a ragione della stretta dipendenza del Principato Vescovile di Trento dalla Casa d'Austria e dal Duca di Tirolo Sigismondo, il contributo di Josef Friedman sulle cosiddette compattate del 1468 merita particolare attenzione. Questo trattato, il cui testo stranamente non è stato ancora pubblicato, rispecchia con chiarezza la quasi completa sottomissione del Hindebach al vicino settentrionale. Sottomissione che si sarebbe profilata ancora più accentuata non avesse il Duca cercato l'intesa in vista dell'imminente guerra contro gli svizzeri. Il Duca di Tirolo, in conformità a quanto stabilito dagli accordi politici sussistenti dalla fine del secolo XIII, e ulteriormente ampliati sotto i predecessori del nostro, possedeva le temporalia del Principato Vescovile ed era disposto a cederle solo al prezzo di una pattuizione formale. È segno evidente della quasi totale sottomissione del Vescovo il fatto che ambedue i documenti del trattato abbiano ricevuto la loro formulazione definitiva nella cancelleria tirolese e che i negoziatori trentini non siano riusciti ad ottenere una regolamentazione meno severa in nessun punto. Tutto questo risulta dal voluminoso fascicolo che permette di seguire a passo la nascita delle compattate. Tra l'altro, le compattate del 1468 resteranno per secoli il fondamento dei rapporti giuridici tra Principato Vescovile e Tirolo. Ma la soggezione di Hindebach alla volontà politica del Duca di Tirolo, non era limitata a questo aspetto. Infatti, la gran parte dell'aristocrazia trentina era legata da vincoli di vassallaggio al vicino settentrionale, mentre una piccola minoranza era orientata verso sud, cioè verso la signoria veneziana. Il contributo di Marco Bellabarba su dottrina giuridica e governo territoriale del principe e vescovo illustra l'esiguità del margine d'azione del nostro, prendendo spunto dalle annotazioni in margine del Hindabach nei libri feudorum dei suoi predecessori. Rivelano non solo la sua grande erudizione di diritto canonico e civile, ma anche quanto la realtà costituzionale si è discostata dal suo assetto teorico. Il nostro dovette constatare che i suoi predecessori avevano gradualmente estranghiato le prerogative vescovili, cosicché i suoi diritti signorili mantenevano una certa consistenza solo dove l'aristocrazia era poco abbiente. Per contrastare questo svuotamento dei suoi diritti principeschi, si appoggiò su un gruppo piuttosto piccolo di notabili locali, a lui devoti e da lui stesso elevati alla nobiltà. Li denominò gentilitas, li provvide di piccoli privilegi di natura finanziaria e applicò a loro i principi di diritto feudali appresi a Padova. Le annotazioni in margine nei libri Feudorum sono una fonte estremamente rara e informativa sulle idee di un principe e rappresentano il punto di partenza pure per il saggio di Gian Maria Varanini su Hindabach e le comunità rurali. È caratteristica del Trentino che le comunità rurali, in particolar modo quelle della Val di Fiemme, della Val di Non e delle Giudicarie, disponessero sin da tempi antichi di una certa autonomia, fissata inoltre per iscritto. In questo campo il Hindabach sperava di poter, procedendo con la dovuta cautela, ampliare le proprie competenze signorili. Nel corso dei primi anni del suo episcopato rinnovò la maggior parte degli statuti delle comunità rurali e infatti possiamo osservare fino al 1486 vari episodi significativi dalla loro vicenda istituzionale e dell'evoluzione statutaria. Nella Val di Non, come tutti sappiamo, questa evoluzione non fu favorevole al vescovo. La nota rivolta contro il vicario vescovile del 77 e il suo abbattimento da parte di Sigismondo di Tirolo diedero a quest'ultimo un'occasione per intensificare ulteriormente la sua presenza e rafforzare i vincoli che già legavano a lui la nobiltà della Val di Non. Nelle Giudicarie, in una terra senza signori e senza castelli, i rapporti tra vescovo e comunità locali sono particolarmente pronunciati. Il vicario e il capitano vescovile dispongono di competenze molto ampie, anche di natura giurisdizionale, e la conferma degli statuti da parte del vescovo non causa attriti. In Val di Fiemme si possono osservare contemporaneamente due tendenze diverse. Da un lato il vescovo riconosce le prerogative locali, dall'altro, con un intervento più decisivo e drastico, riesce ad ampliare le sue competenze finanziarie e di diritto penale. Purtroppo si sa ben poco delle finanze del principato vescovile sotto Hindabach. È un caso fortunato che si siano conservati gli elenchi degli introiti risultanti dalla venerazione di Simonino di Trento nella chiesa di San Pietro e delle spese sostenute con detti introiti negli anni dal 75 all'85. Il vescovo seguiva personalmente e con molta precisione nei libri contabili questi introiti, tanto improvvisi quanto imprevedibilmente alti. padre Frumenzio Ghetta, da decenni ormai un pilastro della storiografia regionale del Trentino, non solo cura l'edizione di questa preziosa fonte, ma ha pure compilato un elenco delle spese raggruppando le voci per materie. Eccoci quindi giunti al caso del piccolo Simonino di Trento, una vicenda che getta un'ombra sinistra su Hindapach. Proprio perché dispongiamo di una documentazione ricca come per nessun altro caso di antisemitismo medievale, un'approfondita trattazione in sede storiografica potrà gettare luce sulla nascita di pregiudizi e stereotipi, contribuendo così a una presa di coscienza importantissima in questo momento. Sono molto felice che sia stata di nuovo data la parola a padre Willehard Paul Eckert, il quale ormai 20 anni fa gettò le basi storico-critiche per l'abolizione del culto di Simonino. Padre Eckert ci espone i motivi superstiziosi nel processo degli ebrei di Trento. Come saprete, si sta realizzando il desiderio a lungo coltivato che i voluminosi atti di detto processo vengano pubblicati in un'edizione scientificamente soddisfacente. Questa edizione, oltre ai verbali del procedimento del 75 e del procedimento ripreso su iniziativa di Papa Sisto IV nel 78, comprenderà il carteggio del Hindapach in proposito, gli scritti polemici contro il commissario papale Battista dei Giudici e i trattati giuridici che portarono alla ripresa del procedimento. Il professor Quaglioni e Anna Esposito nel 90 hanno pubblicato il primo volume accompagnandolo con una serie di studi che spero non li avranno trattenuti dal proseguimento del lavoro dell'edizione. Nel nostro volume il professore Quaglioni presenta i trattati giuridici, giustamente definendoli chiavi di lettura essenziali dei verbali. Infatti, sono dissertazioni molto erudite in diritto procedurale, scritte al fine di provare la legalità del procedimento. Vorrei solo per esempio ricordare la consultatio di Giovanni Francesco Pavini, della quale esiste non solo la versione stampata del 78, ma anche un autografo commentato dal Hindapach nell'Archivio di Stato di Trento. Fu uno scritto decisivo per le sorti del processo, in quanto convinse la Commissione Papale sulla correttezza del procedimento. Anna Esposito, invece, ripercorre la nascita e la prima diffusione in Italia del culto del Beato Simonino. La venerazione ebbe inizio immediatamente dopo il ritrovamento della salma del bambino e si intensificò in seguito all'esecuzione capitale della comunità ebraica di Trento. L'efficace propaganda da Hindapach stesso esercitata mediante il nuovo mezzo di comunicazione, la stampa, permise al culto di espandersi entro un anno su tutta l'Italia settentrionale fino giù in Umbria. Ai temporanei divieti papali corrispose solo un accresciuto sforzo di Hindapach per aumentare la diffusione del suo miracoloso martire. Tra i propagatori più assidui bisogna annoverare gli osservanti, dei quali il famoso Michele Carcano merita di essere menzionato. Ne furono triste conseguenza la crescita dell'odio verso gli ebrei è in aumento delle accuse di uccisione rituale in tutta l'Italia settentrionale. Il breve contributo del nostro collega austriaco Nikolaus Vielmetti elenca le comunità ebraiche nella Germania superiore e nei domini asburgici. Dimostra che era stato un recupero dopo la terribile strage degli anni 1348-49, soprattutto in Austria, ma che la situazione economica degli ebrei andava declinando dopo la metà del 400. Ciò spiego anche che il sostegno accordato a loro da parte dei duchi diminuì passo a passo. Tale di questo decadimento fu la caccia generale dai territori asburgici sotto Massimiliano I. La comunità ebraica di Trento fu colpita in un momento di disdegno generale, la loro funzione economica avendo perso la sua importanza. La ricca ripercussione internazionale del processo illustra l'articolo di Ronny Po Chiasia, attira l'attenzione ad un esemplare degli atti del processo, tradotti in tedesco, che il conte di Württemberg acquistò dal suo cognato Francesco Gonzaga e che dopo un lungo giro finì in una collezione americana. Questa copia del manoscritto trentino del 1478 è un'altra prova della propaganda anti-ebraica o piuttosto pro-simoninica dell'Hindenburg. Per non dilungarmi nell'esposizione dei saggi sul caso simonino, con il rischio di annoiarvi, vorrei solo brevemente presentare il contributo di Emanuela Trevisan Sem, nella speranza che Laura Dal Pra e Dominique Rigaud mi perdonino se sorvolo così i loro contributi di storia dell'arte sull'immagine di Simonino nell'arte trentina dal XV secolo al Settecento. Emanuela Trevisan Semi ci fa conoscere due documenti che narrano la drammatica fine della comunità ebraica di Trento dal punto di vista delle vittime. Una lamentazione scritta da Shlomo HaLevi e una lettera anonima, ambedue del 1475, rappresentano testimonianze profondamente commoventi di indescrivibile dolore e intima sottomissione alla volontà divina. Come riassumere e concludere se non riprendendo un'osservazione già fatta nell'introduzione? Il volume fornisce ormai un apporto indispensabile alla conoscenza dell'argomento e rimane fondamentale per l'ulteriore sviluppo degli studi. In pieno accordo con questa valutazione, non mi resta che pregarla di scusare la mia pronuncia della lingua italiana, pronuncia forse simile a quella dell'Hindenburg. E con ciò vorrei cedere la parola al professor Prosperi. Grazie.